Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer, traduzione di Bruno Dera. Il venerdì a Brooklyn non era diverso dal venerdì a Chivkaf. Jadwiga, pur non essendosi convertita, cercava di osservare le tradizioni del giudaismo. Ricordava i riti ebraici dai tempi in cui aveva lavorato per i genitori di Herman. Aveva acquistato una challah e cuoceva al forno quegli speciali piccoli dolci del sabato. Lì in America non aveva il forno adatto per riscaldare il cholent, ma una vicina le insegnò a coprire i bruciatori a gas con protezioni di amianto in modo che il cibo non bruciasse e potesse rimanere caldo per tutto il sabato. Mermaid Avenue, Jadwiga comprava il vino e le candele necessarie per la benedizione. Aveva, a un certo momento, acquistato due candelieri d'ottone e, sebbene non sapesse pronunciare le parole della benedizione, si copriva gli occhi con le dita, per un momento, dopo aver acceso le candele del sabato, e farfugliava qualcosa, come vedeva fare, alla madre di Herman. Ma Herman l'ebreo ignorava il sabato, accendeva la luce e la spegneva, sebbene questo fosse proibito. Dopo il pasto del sabato, a base di pesce, riso, fagioli, pollo e stufato di carote, si metteva a sedere e scriveva, sebbene anche questo fosse vietato. Quando Jadwiga gli domandava perché stesse trasgredendo ai comandamenti di Dio, le rispondeva: «Dio non esiste, hai capito? E anche se esistesse, lo sfiderei». Sebbene fosse stato pagato, Herman sembrava più preoccupato che mai quel venerdì. Domandò a Jadwiga più volte se qualcuno avesse telefonato. Tra il pesce e la minestra tolse un taccuino e una penna dal taschino della giacca e annotò qualcosa. A volte, il venerdì sera, quando era in vena, intonava i canti che aveva cantato suo padre a tavola e le canzoni che traduceva in polacco per Jadwiga. La prima era un saluto agli angeli che ogni sabato scortavano gli ebrei fino a casa dalla sinagoga. La seconda lodava la moglie virtuosa, più rara di una perla. Una volta egli le aveva tradotto un inno che parlava di un meleto e di una giovane sposa innamorata e di uno sposo ornato con gioielli. L'inno descriveva carezze che, secondo Jadwiga, non si addicevano a un canto religioso. Herman le spiegò che era stato composto da un autore di cabale noto come Santo Leone, un uomo che aveva compiuto miracoli e al quale si era rivelato il profeta Elia. Le nozze di cui parlava la canzone avevano avuto luogo nelle dimore celesti. Le gote di Jadwiga si imporporavano quando lui le cantava questi inni sacri e gli occhi di lei diventavano più luminosi, colmi di felicità per il sabato, ma quella sera Herman era taciturno e irritabile. Jadwiga sospettava che a volte egli andasse con altre donne durante i suoi viaggi, in fin dei conti poteva darsi che a volte avesse bisogno di una donna capace di leggere quei caratteri minuscoli. Poteva mai l'uomo sapere che cosa fosse davvero meglio per lui? Con quale facilità gli uomini si lasciavano illudere da una parola, da un sorriso, da un gesto? Nel corso della settimana Jadwiga copriva la gabbia dei pappagallini non appena scendeva la sera, ma la vigilia del sabato lasciava che rimanessero desti fino a tardi. Wojtusz, il maschio, cantava insieme a Herman. Il pappagallino sembrava cadere in una sorta di stato di trance, ciancottava, trillava e svolazzava tutto intorno alla gabbia. Quella sera Herman non cantava e Wojtusz si appollaiò sulle sbarrette del tetto della gabbia e si rassettò le penne. «È successo qualcosa?» domandò Jadwiga. «Niente, niente», disse Herman. Jadwiga uscì e andò a preparare il letto. Lui guardò fuori dalla finestra. In genere Masha gli telefonava tutti i venerdì sera. Non si serviva mai del telefono in casa il sabato per non offendere sua madre. Usciva per comprare le sigarette e telefonava da un negozio vicino. Ma quella sera l'apparecchio restava muto. Da quando Masha aveva letto l'annuncio sul giornale, Herman si aspettava che lo scandalo scoppiasse da un momento all'altro. La menzogna da lui escogitata era troppo ovvia. Sembrava inevitabile che Masha scoprisse ben presto come non avesse scherzato per quanto concerneva il ritorno di Tamara. Più volte il giorno prima, in un tono di voce trionfalmente geloso o strizzando l'occhio ironica, la sua amante aveva ripetuto il nome del cugino immaginario: Feivellenberger, Feivellenberger. A quanto pareva stava soltanto rinviando il colpo per non rovinare la loro settimana di vacanza a due che doveva cominciare lunedì. Per quanto Hermann si sentisse sicuro di Jadwiga, era completamente incerto nei riguardi di Masha. Lei non si era mai rassegnata alla sua convivenza con un'altra donna, lo punzecchiava dicendogli che si sarebbe rimessa con Leon Tortschiner. Hermann sapeva che gli uomini le correvano dietro, li aveva osservati spesso nel ristorante economico, mentre cercavano di attaccare discorso con lei, chiedendole il suo indirizzo e il suo numero di telefono e lasciandole i loro biglietti da visita. Tutto il personale maschile del ristorante, dal proprietario allo sguattero portoricano, la guardava con avidità. Persino le donne ne ammiravano il corpo aggraziato, il lungo collo, la vita sottile, le gambe snelle, il biancore della pelle. Quali poteri possedeva lui per tenerla legata a sé? Per quanto tempo la cosa sarebbe durata? Aveva cercato innumerevoli volte di prepararsi al giorno in cui Masha lo avrebbe piantato. Ora rimaneva in piedi, guardando, fuori dalla finestra, la via fiocamente illuminata, le foglie immote sugli alberi, il cielo che rifletteva le luci di Coney Island, i vecchi, uomini e donne, che avevano portato sedie intorno al portone e conversavano a non finire, come fa chi non ha più nulla in cui sperare. Jadwiga gli mise una mano sulla spalla. «Il letto è pronto, le lenzuola sono di bucato!» Hermann spense la luce del soggiorno, lasciando soltanto il fioco bagliore delle candele baluginanti. Jadwiga andò in bagno. Dal villaggio aveva portato con sé riti femminili che non mancava mai di rispettare. Prima di andare a coricarsi, si sciacquava la bocca, si lavava e si pettinava. Anche a Lipsk era sempre stata immacolata. Lì in America, grazie alla stazione radio polacca, aveva imparato a seguire ogni sorta di consigli igienici. Wojtusz lanciò un'ultima protesta quando colò l'oscurità e volò dentro la gabbia insieme a Marianna. Si piazzò saldamente accanto alla femmina, sul trespolo, ove rimanevano immobili fino all'alba, assaporando forse il grande riposo che sopraggiunge con la morte, il redentore di uomini e animali. Hermann si spogliò distesa, desta, sul divano nella casa dello zio, gli occhi scintillanti al buio. Masha si trovava probabilmente in piedi nelle vicinanze di Croton Park o in Tremont Avenue a fumare una sigaretta dopo l'altra. I giovincelli che le passavano accanto fischiavano ammirati. Forse un'automobile si era fermata e qualcuno stava cercando di farla salire. Forse ella stava davvero girando in macchina con qualcuno. Il telefono squillò ed Hermann si affrettò ad andare a rispondere. Una delle candele del sabato si era spenta, ma l'altra continuava a crepitare. Alzò il ricevitore e bisbigliò: «Masha!» Per un momento vi fu il silenzio. Poi la voce di Masha. «Eri a letto con la tua contadina?» «No, non ero a letto con lei.» «E dove allora? Sotto il letto?» «Dove ti trovi?» domandò Hermann. «Che cosa può importarti dove mi trovo? Potresti essere con me, e invece passi la notte con un imbecille di Lipsk. E anche altre donne. Tuo cugino Feivellenberger è una baldracca grassa di quelle che piacciono a te. Hai dormito anche con lei?» «Non ancora.» «Chi è? Potresti pur dirmi la verità.» «Te l'ho già detta. Tamara è viva ed è venuta qui.» «Tamara è morta e sta marcendo sottoterra. Feivel è una delle tue belle.» «Giuro sulle ossa dei miei genitori che non è una delle mie belle.» Seguì, all'altro capo del filo, un teso silenzio. «Dimmi chi è», insistette Masha. «Una mia parente, una donna finita che ha perduto i figli. L'ha fatto in America. «E allora perché hai detto che era Feivellenberger?» domandò Masha. «Perché so quanto sei sospettosa. Se senti parlare di una donna, pensi immediatamente che...» «Quanti anni ha?» «È più anziana di me. Un relitto infranto. Credi davvero che Reb Abraham Nissen Jaroslaver avrebbe messo un annuncio sul giornale per una delle mie ganze? Lui e la moglie sono persone pie. Ti ho detto di telefonare e di accertartene tu stessa. Bene. Forse questa volta sei innocente. Non saprai mai cosa ho passato in questi ultimi giorni. Piccola idiota, ti amo. Dove sei adesso? Dove sono? In una pasticceria di Tremont Avenue. Ho camminato lungo la strada, fumando, e ogni pochi minuti un'automobile si fermava e qualche ruffiano voleva prendermi su. I ragazzi fischiavano come se fossi stata una diciottenne. Che cosa vedono in me non lo saprò mai. Dove andremo lunedì? Troveremo qualche posto. Ho paura di lasciare sola mia madre. Che cosa accadrà se le verrà un attacco? Potrebbe morire e non un gallo canterebbe. Prega una delle tue vicine di badare a lei. Evito le vicine, non posso farmi viva tutto a un tratto e chiedere favori. Del resto mia madre ha paura della gente. Se qualcuno bussa alla porta, pensa subito che si tratti di un nazista. Dovrebbero godersi la vita, tanto quanto io mi godo la prospettiva di questo viaggio. Se le cose stanno così, possiamo rimanere in città. Ho bisogno di vedere erba verde, di respirare aria buona. Persino nei campi di concentramento l'aria non era inquinata come qui. Porterei anche mia madre, ma agli occhi di lei io sono una sgualdrina. Dio le infligge sofferenze di ogni genere, ed ella trema per paura di non fare abbastanza per lui. La verità è che quanto Dio voleva, Hitler l'ha fatto. Allora perché accendi le candele del sabato? Perché digiuni il giorno dell'espiazione? Non per lui. Il vero Dio ci odia, ma noi abbiamo sognato un idolo che ci ama e ha fatto di noi stessi il suo popolo eletto. Lo dicesti tu stesso. I gentili creano divinità di pietra e noi divinità di teorie. A che ora sarai qui, domenica? Alle 4. Anche tu sei un dio e un assassino. Bene, abbi un buon sabato. Herman e Masha presero un torpedone e discesero a Lake George dopo un viaggio di 6 ore. Là trovarono una camera per $6 e decisero di trattenersi quella notte. Erano partiti senza avere un'idea di dove fossero diretti. Herman aveva trovato sulla panchina di un giardino pubblico una carta dello stato di New York e quella era la sua guida. La finestra della camera dava su un lago e su colline. La brezza che penetrava nella stanza portava con sé la fragranza dei pini. Si udiva un suono remoto di musica. Masha aveva un cestino di cibarie preparate da lei e dalla madre, frittelle, pudding, una composta di mele, prugne, uva passa e una torta fatta in casa. Masha, fumando, rimase a guardare fuori dalla finestra le barche a remi e i motoscafi sul lago e disse scherzosamente: «Dove sono i nazisti? Che razza di mondo è questo senza i nazisti? Sono un paese retrogrado, questi Stati Uniti». Prima della partenza aveva acquistato una bottiglietta di cognac con parte di quello che le era stato pagato per le ferie. Si era abituata a bere in Russia. Herman si limitò a un sorso dal bicchiere di carta, ma ella seguitò a riempire il suo. Diventò sempre e sempre più allegra, cantò, fischiettò. Sin dalla prima fanciullezza, Masha aveva preso lezioni di danza a Varsavia. I polpacci di lei erano muscolosi come quelli di una ballerina. A questo punto alzò le braccia e cominciò a danzare, in sottoveste e calze di nylon, la sigaretta ciondolante dalle labbra, i capelli sciolti. Ricordò a Herman le ragazze che si esibivano nel circo equestre di Chivkav. Ella cantò in yiddish, in ebraico, in russo, in polacco, pregò Herman di ballare con lei, esortandolo con voce brilla: «Vieni, ragazzo della yeshiva, vediamo che cosa sai fare!» Andarono a letto presto, ma ebbero una notte piena di interruzioni. Masha dormiva per un'ora e si destava. Avrebbe voluto fare tutto contemporaneamente, amare, fumare, bere, parlare. La luna splendeva bassa nel cielo, sopra l'acqua. Pesci saltavano qua e là, le stelle tremolavano come lanterne minuscole. Masha raccontò a Herman episodi che destarono in lui tanto l'ira quanto la gelosia. La mattina dopo, di nuovo fecero le valigie e risalirono su un torpedone. Trascorsero la notte successiva a Shroon Lake, in uno chalet vicino all'acqua. Faceva tanto freddo che dovettero mettere i vestiti sopra le coperte per stare al calduccio. Dopo colazione, la mattina seguente, noleggiarono una barca. Herman remò, mentre Masha rimaneva sdraiata per scaldarsi al sole. Egli immaginò di poter leggere i suoi pensieri attraverso la pelle della fronte, attraverso le palpebre degli occhi chiusi. Pensò quanto era fantastico trovarsi in America, in un paese libero, senza la paura dei nazisti, delle guardie di confine, degli informatori. Non aveva neppure portato la carta d'identità. Negli Stati Uniti i documenti non venivano chiesti a nessuno. Ma non riusciva a dimenticare nemmeno per un momento che in una via tra Mermaid Avenue e Neptune Avenue lo aspettava Jadwiga. A East Broadway, nella casa di Reb Abraham Nissen Yaroslaver, si trovava Tamara, che era tornata e stava aspettando una qualsiasi briciola gettata da lui dalla sua parte. Non sarebbe mai stato totalmente libero dai diritti che quelle donne avevano su di lui. Anche Rabbi Lampert era giustificato quando si sognava di lui. Emma aveva rifiutato di accettare l'amicizia che il rabbino voleva imporgli. Circondato dal cielo celeste chiaro, dall'acqua giallo-verde, si sentì, ciò nonostante, meno colpevole. Gli uccelli avevano annunciato il nuovo giorno come se si fosse trattato del mattino dopo la creazione del mondo. Brezze tiepide portavano i profumi dei boschi e gli odori dei cibi cucinati negli alberghi. Parve a Herman di aver udito il verso di una gallina o di un'anatra in qualche posto in quella splendida mattinata estiva, pollame veniva sgozzato. Treblinka era dappertutto. Le provviste di Masha erano finite, ma ella non volle saperne di pranzare in un ristorante. Andò al mercato e comprò pane, pomodori, formaggio e mele. Tornò caricata di tanta di quella roba da sfamare un'intera famiglia. Insieme alla sua scherzosa frivolezza, aveva gli istinti di una madre. Non sprecava il denaro come fanno le donne dissolute. Nello chalet, Masha trovò una stufetta a gasolio e preparò il caffè. L'odore del gasolio e del fumo ricordò a Herman gli anni nei quali aveva studiato a Varsavia. Mosche, api, farfalle entrarono dalla finestra aperta. Le mosche e le api andarono a posarsi su un po' di zucchero rovesciato. Una farfalla si librò sopra una fetta di pane. Non voleva mangiare, ma sembrava assaporare l'odore. Per Herman, quelli non erano insetti parassiti da scacciare. Vedeva in ognuna di quelle minuscole creature le manifestazioni dell'eterna volontà di vivere, esperienza, comprensione. Le mosche, protendendo i palpi verso il cibo, si stropicciavano le zampette posteriori. Le ali della farfalla ricordavano a Herman uno scialle di preghiera. Le api ronzavano e tornavano a volare via. Una formichetta strisciava qua e là, era sopravvissuta alla gelida notte, stava camminando sulla tavola, ma dove era diretta? Si soffermò accanto a una briciola, poi proseguì, zigzagando avanti e indietro. Si era separata dal formicaio, e adesso doveva cavarsela per conto suo. Da Shroon Lake, Herman e Masha proseguirono per Lake Placid. Là trovarono una camera in una casa sulla collina. Tutto in quella dimora era antico, ma immacolato. Il salotto, le scale, i quadri e i quadretti alle pareti, l'asciugamano con le cifre ricamate, importato dalla Germania, un ricordo dei tempi anteriori alla Prima Guerra Mondiale. Sul grande letto si trovavano spessi guanciali, come quelli delle locande europee. La finestra dava sulle montagne. Il sole era tramontato, proiettando quadrati viola sulle pareti. Dopo qualche tempo, Herman discese per telefonare. Aveva insegnato a Jadwiga come si riceve una telefonata addebitata. Jadwiga gli domandò dove si trovasse e lui nominò la prima città che gli veniva in mente. In genere, Jadwiga non si lamentava. Ma questa volta parlò in tono agitato. Di notte aveva paura. Le vicine ridevano di lei, l'additavano. Perché Herman aveva bisogno di guadagnare tanto? Lei era dispostissima ad andare a lavorare e ad aiutarlo, in modo che potesse restare a casa più a lungo, come gli altri uomini. Egli la calmò, si scusò e promise di non rimanere assente per molto tempo. Jadwiga gli mandò un bacio attraverso il telefono ed Herman lo ricambiò con un suono schioccante. Quando risalì, Masha non volle rivolgergli la parola. Poi disse: «Ora so la verità». «Quale verità?» «Ho ascoltato la telefonata. Ti manca. Non vedi l'ora di essere di nuovo con lei. È completamente sola, indifesa. E io allora?» Cenarono in silenzio. Masha non accese la luce. Gli porse un uovo sodo ed egli ricordò ad un tratto l'ultimo pasto prima del digiuno, quando ci si divide un uovo sodo sul quale è stato sparso un pizzico di cenere, un segno di lutto, il simbolo del fatto che la propria fortuna può rotolare come un uovo e tramutarsi in sfortuna. Masha ora masticava, ora fumava. Cercò di parlarle, ma non gli rispondeva. Poco dopo aver mangiato, si gettò sul letto vestita, raggomitolandosi, per cui era difficile sapere se dormisse o se avesse il broncio. Herman uscì. Percorse una via sconosciuta. Si fermò a guardare le vetrine di un negozio di souvenir, bambole indiane, sandali ricamati in oro, con suole di legno, collane d'ambra, orecchini cinesi, braccialetti messicani. Arrivò al lago, che rispecchiava un cielo color rame. Profughi dalla Germania passeggiavano lungo la riva, uomini dalle spalle larghe e donne imponenti. Stavano parlando di case, di negozi, della borsa. «In qual modo sono miei fratelli e sorelle?» si domandò Herman. «In che cosa consiste la loro ebraicità? Che cos'è la mia ebraicità?» Avevano tutti lo stesso desiderio, essere assimilati al più presto possibile e liberarsi dell'accento. Herman non faceva parte né di loro né degli ebrei americani, polacchi o russi. Simile alla formica sulla tavola quel mattino, si era strappato alla comunità. Passeggiò intorno al lago, al di là di tratti boscosi, al di là di un albergo costruito come uno chalet svizzero. Lucciole baluginavano, grilli cantavano, un uccello insonne cinguettava tra le chiome degli alberi. La luna si alzò, la testa di uno scheletro. Che cosa c'era lassù? Che cos'era la luna? Chi l'aveva creata? A quale scopo? Forse una soluzione semplice come quella della gravitazione universale stava aspettando che qualcuno la scoprisse. Così, si diceva, era accaduto a Newton non appena veduta una mela cadere da un albero. Forse la verità universale poteva essere contenuta in una sola frase. Oppure le parole che avrebbero potuto definirla dovevano essere ancora create. Era tardi quando tornò alla pensione. Aveva percorso chilometri. Trovò la camera buia. Masha giaceva nella stessa posizione in cui l'aveva lasciata. Si avvicinò e le toccò il viso, come per accertarsi se fosse come lui. «Che cosa vuoi?» ella domandò trasalendo. Herman si spogliò e le si distese accanto. Rimase lì immobile e infine si addormentò. Quando aprì gli occhi, la luna splendeva. Masha si trovava in mezzo alla stanza e stava bevendo cognac. «Masha, non è questo il modo». «Qual è il modo?» Lei si tolse la camicia da notte e gli venne accanto. Si baciarono silenziosamente e fecero l'amore. In seguito lei si drizzò a sedere e accese una sigaretta. A un tratto disse: «Dov'ero 5 anni fa a quest'ora?» Frugò a lungo nei propri ricordi. Poi mormorò: «Ancora tra i morti».